9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, in questo 2 settembre l'attenzione del gattaccio è stato attirato da una notizia che ieri commentavamo nella nostra redazione, perché rimbalzava da qualche giorno, dal 28 di agosto per la precisione, in alcune testate locali venete, tra il Messaggero Veneto, il Gazzino eccetera. E di che cosa si trattava? Di una notizia che ha attirato molto la nostra attenzione e ci ha posto un problema, perché come sempre i giornalisti poi devono tentare innanzitutto di capire le cose prima di spiegarle, non è detto che di solito ci riescano di capirle bene davvero, ma a questo punto ci è sembrato molto interessante. Di che cosa si tratta? Di un comune in Friuli Venezia Giulia, il comune di Paularo, che trovandosi in una particolare condizione, di cui cercherò di tirare rapidissimamente le fila prima poi di parlare con i protagonisti di questa vicenda, ha deciso di essere costretto a toccare uno dei tabù più intangibili, più inviolabili, più sacralmente al centro dell'ordinamento pubblico italiano. E qual è questo tabù? Il fatto che un dipendente pubblico, come noto a noi tutti, rispetto al dipendente privato, è certo il suo posto di lavoro e chi lo può toccare? E allora, premetto con il più totale rispetto per tutti i dipendenti pubblici del nostro paese, trattino, troppi, ma non è colpa loro, visto che non è che si sono autoassunti, chiuso il trattino, abbiamo deciso di capire meglio questa vicenda del comune di Paularo per cercare di porci la questione, primo, di capire quali sono i margini di licenziabilità anche nel pubblico impiego, visto che il tabù apparente è quello dell'illicenziabilità, appunto. Secondo, di tentare di capire se oltre al comune di Paularo e alla particolarità del Friuli, che come noto ha uno statuto speciale, questo tipo di facoltà, sempre che poi venga considerato dal giudice di fronte alle impugnative legittimo, perché naturalmente si andrà alle impugnative come sempre riguarda il diritto del lavoro italiano, possa essere esteso a tutti gli altri comuni. Pensate che cosa ci potrebbe riservare per noi minoritari ma antistatalisti inveterati questa buona possibilità. Allora, di cosa si tratta? Da quello che ho capito io, e per questo premetto esponendomi, prendendomi la responsabilità di sbagliare, ma vediamo se sarà così. Il comune di Paularo si trovava nella condizione di essere richiamato più volte dalla Corte dei Conti per dover rientrare delle proprie spese, dell'eccesso di spesa. Dopodiché il comune di Paularo ha anche dovuto procedere, indotto, spinto coattivamente pressoché, a esternalizzare e a cedere alcune sue attività, appunto per ridurre il perimetro e diminuire le proprie spese. Quindi che cosa ha dovuto fare? Ha dovuto conferire a una società Carniacque SPA il servizio idrico integrato, ha esternalizzato il servizio cimiteriale, ha esternalizzato servizi ausiliari manutentivi del patrimonio edilizio comunale, e quindi è rientrato di alcune spese, è rientrato anche di alcune entrate che erano connesse naturalmente a questi servizi, come quelli per esempio idrici. Dopodiché, di fronte al fatto che la Corte dei Conti continuava a dire rientrate, ha deciso di usufruire di una possibilità che la legge regionale, che il contratto regionale, o meglio, sui dipendenti degli enti locali, consente. Questo accordo è di alcuni anni fa, nel 1 di agosto del 2002, nella regione Friuli, consente alle autonomie di procedere alla individuazione in maniera contrattata con i sindacati di lavoratori in mobilità, da mettere in mobilità quando appunto le autonomie si trovano di fronte a cessione di attività, a riorganizzazione dei propri servizi, a esternalizzazione dei propri servizi, di fronte a lavoratori che a quel punto non si giustificano più nelle piante organiche. Il contratto regionale consente all'articolo 57, questo contratto, queste norme, la parte normativa del contratto che si riferiscono al 2002, all'articolo 57 prevede la disciplina della mobilità, e la mobilità è una procedura naturalmente contrattata tra l'ente locale e i sindacati. Cosa avviene al comune di Paularo? Che a quel punto il comune chiede ai sindacati più incontri. E in questi incontri si svolge il primo incontro nel 2009, un secondo incontro il 26 gennaio del 2010. E in questi incontri il sindacato a un certo punto dice: no, guardate signori, voi non mettete in mobilità nessuno dei nostri dipendenti. Insomma, il sindacato a un certo punto si alza e se ne va, da quello che ho capito. Allora, il comune alla luce dell'articolo 57 di questo contratto regionale che disciplina per il pubblico impiego le procedure di mobilità, e alla luce di una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 7979 del 6 aprile 2002, che in materia di mobilità, non solo per gli enti pubblici, per tutte le imprese italiane, introduce per la prima volta la priorità delle ragioni tecniche organizzative, cioè dell'impresa, dell'ente, del datore di lavoro, che nel procedere all'individuazione dei criteri delle liste di mobilità può dire: guardate, la questione fondamentale, più che l'anzianità dei lavoratori, più che la loro qualifica, eccetera, eccetera, è che io nel mettere in mobilità per ridurre il personale vengo a essere autorizzato da questa sentenza della Corte di Cassazione ad anteporre a tutto le mie ragioni gestionali, le mie ragioni appunto tecnico-organizzative. E allora il Comune di Paolaro adotta una bella delibera il 20 febbraio del 2010, nel quale, una volta richiamato il principio che il diritto dovere di mettere in mobilità tre lavoratori, alcuni lavoratori, per la cessione delle attività che era stato obbligato a fare, che aveva deciso di fare per ridurre il proprio perimetro e rientrare dei costi a fronte dei nuovi rilievi della Corte dei Conti e della necessità di ridurre le spese, una volta attivate le procedure di mobilità previste dal contratto regionale dei pubblici dipendenti e una volta constatato che il sindacato si alza e se ne va dal tavolo, prende la sentenza della Corte di Cassazione 7979 del 2002, che autorizza a quel punto il datore, anche se pubblico, a dire: io procedo all'individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità secondo le mie specifiche esigenze. E a questo punto il Comune di Paolaro ha deliberato di mettere in mobilità tre lavoratori, di cui due a tempo determinato e una lavoratrice a tempo indeterminato. Naturalmente gli articoli dei giornali si soffermavano su tutti questi aspetti, non su quelli tecnici, e quindi naturalmente erano il dramma dei tre lavoratori, di Elisa Termini, che ha 34 anni, due figlie ancora piccole ed è appunto una addetta alle pulizie. Il suo compagno fa il muratore, lei da 5 anni lavora in comune con un part time da 650 euro ottenuto in un ufficio di collocamento, e poi due operai, gli altri due dipendenti del comune, sono due operai di 32 e di 52 anni. E ovviamente io mi scuso per fare questa trasmissione che può sembrare volta ad augurarsi il male di questi tre lavoratori, non è affatto così. Io ricordo tutti naturalmente che le procedure di mobilità sono, non è detto che siano licenziamento, nel settore pubblico sono introdotte e disciplinate perché debbano essere altri nel settore pubblico a farsene carico. Però detto questo, una volta che uno prende l'80% dello stipendio per tutto il tempo previsto nelle liste di mobilità, alla fine nel settore privato la fine della mobilità, una volta che non venga soddisfatta l'esigenza della riallocazione, è appunto il licenziamento. Allora domanda, cerchiamo di capire, il Comune di Paolaro che ha proceduto in questa maniera, si è avvalso in maniera pienamente legittima di quanto dispone il combinato disposto del contratto del pubblico impiego, sentenza della Corte di Cassazione, è applicabile al punto anche del lavoro pubblico oppure no? E una volta che capiamo questo tipo di facoltà c'è in tutte le autonomie del nostro paese? Io ricordo che i dipendenti pubblici, se andiamo a vedere quanti sono, ne abbiamo 1.145.000 nella scuola, trantrando i giornali in questi giorni, perché naturalmente tutti piangono perché vorrebbero assunti, ci sarebbero decine e decine di migliaia di posti saltati, invece bisognerebbe assumere nuovi. Io non la penso così. Comunque ne abbiamo 735.000 nella sanità, ne abbiamo 695.000 negli enti locali, ne abbiamo 335.000 nei corpi di polizia, più di 200.000 nei ministeri, 130.000 nell'università, 65.000 rotti negli enti non economici, 10.000 nella magistratura. La domanda è: ma se in tutti gli enti locali, per esempio, stiamo parlando quasi di 700.000 dipendenti, noi andassimo incontro all'auspicabile, da parte mia, processo di ridimensionamento delle proprie attività con forti cessioni, esternalizzazioni, concentrarsi su regole pubbliche nella gestione del servizio, nell'offerta del servizio pubblico, che non è affatto detto che debbano essere gestiti da dipendenti pubblici, allora in quel caso a cosa potremmo assistere? Anche, a differenza di quello che si è detto fino a quest'oggi, a mobilità prima e licenziamenti poi di un bel pacco di pubblici dipendenti, se i privati non se li prendessero all'atto dell'esternalizzazione. Quindi il tabù sarebbe, il tabù della illicenziabilità, sarebbe una volta per sempre superato. Io ripeto e concludo, non mi auguro di vedere la gente buttata per strada, ma quello che so è che lo Stato è ipertrofico, che lo Stato è in deficit, che lo Stato ci chiede troppe tasse, e scoprire che nel pubblico impiego c'è un sindaco che dice oh, io provo a contrattare, però se sindacato mi lascia in braga di tela, cari signori, io sono obbligato dalla Corte dei Conti e ho lo strumento col contratto in mano del pubblico impiego, e in più c'ho anche una bella sentenza della Corte di Cassazione, e sapete che c'è, lo scelgo io con la mia immobilità, e poi io la possibilità di riprenderli non ce l'ho perché devo rispondere delle tasse locali ai miei elettori, e se nessun altro le prende, e beh, vorrà dire che le licenzieremo. Mi sembra una bella svolta. Ora, siccome probabilmente sono in corso in parecchi errori in questa presentazione, ma serviva a spiegare a voi perché decidiamo di fare di 3 dipendenti di un comune friulano un caso generale di una trasmissione, i lavoratori che da ieri sono in mobilità, cerchiamo di capire insieme ai protagonisti a questo punto della vicenda come stanno le cose. Abbiamo collegato con noi Maurizio Guerri, che è il sindaco del comune di Paolaro, che è in provincia di Udine. Buongiorno signor sindaco. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Abbiamo Giovanni Di Matro, il segretario CISL Alto Friuli, perché come sacrosanto interpelliamo il sindacato che non la pensa così. Buongiorno a Di Matola. Buongiorno direttore. E poi abbiamo il professor Maurizio Del Conte, che è docente di diritto del lavoro alla Bocconi. Buongiorno professor Del Conte, tra l'altro la stiamo disturbando, lei è negli Stati Uniti, quindi non so che ora sia, grazie per questo collegamento da parte mia. Buongiorno professor. Buongiorno a voi. Allora sindaco, innanzitutto io direi facciamo parlare prima il sindacalista, però voglio sapere se nella ricostruzione da parte sua sono in corso in errori troppo gravi, nel qual caso la pregherei di correggere. Ma no, tutto sommato ha spiegato quasi bene. L'unico problema è che non è solo un problema del rilievo della Corte dei Conti, è tutto un susseguirsi di fatti che poi spiegherò. Ecco, questo è il dato di fatto. Però più o meno gli strumenti tecnici e legislativi ai quali avete fatto ricorso sono questi. Sì, sono questi. Perfetto. Allora, il punto di vista di Giovanni Di Matola, segretario della CISL dell'Alto Friuli, in quali invece problemi, illegittimità, inopportunità, improprietà, illiceità, questo iter a giudizio del sindacato, della CISL, è in corso? Innanzitutto di nuovo buongiorno, e volevo fare un chiarimento prima di iniziare. Ci tenevo a ribadire che il sindacato, come diceva lei anticipatamente, non ha abbandonato il tavolo della trattativa, bensì ha cercato fino in ultimo di proporre con l'amministrazione una possibile via di alternativa a questa scelta, che è stata una scelta drammatica. Per entrare nel merito della questione, noi abbiamo avuto, come accennava lei nell'introduzione, all'inizio del mese di ottobre già del 2009, già i primi incontri per la trattativa in essere. E sin dall'inizio non eravamo d'accordo sulla possibilità di mettere in mobilità i dipendenti. Nei successivi incontri ci sono state proposte le solite strade da seguire, che sono strade secondo noi a senso unico da parte del Comune, dove chiedeva alla parte sindacale, alla CISL, di avallare le scelte da mettere in atto. E sicuramente questo non è una cosa che si può chiedere al sindacato. E come CISL dell'Alto Friuli si è ritenuto che la proposta del Comune appunto non potesse essere accettata, e soprattutto non era rispettosa della normativa vigente, che ha anticipato lei, che è quella del contratto collettivo regionale del 2002 all'articolo 57, e di dover confermare di non poter raggiungere nessuna intesa, ma perché non c'erano i presupposti che poi avrò spazio di indicare. Però la posizione del sindacato è: se non c'è l'accordo tra l'ente pubblico locale e il sindacato, l'ente pubblico locale non può procedere all'individuazione autonoma dei lavoratori, quindi autonoma dei criteri e dei lavoratori singoli da mettere in mobilità. Ho capito bene? Sicuramente sì. A quanto fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione del 79 del 2002, la Corte dei Conti sì stabilisce la legittimità degli accordi sindacali che operano a scelta dei lavoratori da porre in mobilità, ma evidenzia comunque a monte un accordo tra le parti, quell'accordo tra le parti che nel comune di Paularo non c'è stato, perché secondo noi l'applicazione dei criteri tenendo in considerazione l'articolo 57 del contratto 2002 erano stati disattesi. Ora, prima di chiedere lumi in termini più generali su tutti questi istituti, cioè la mobilità nel settore pubblico, negli enti locali, se la mobilità poi possa preludere a veri e propri licenziamenti, eccetera, eccetera, sentiamo dal sindaco invece una replica alle osservazioni da parte sindacale della CISD. Wuerli, che in che cosa lei dice invece? Noi siamo pienamente titolati, anche in assenza di un accordo della controparte sindacale, a procedere, perché dobbiamo procedere ed è legittimo, leggi vigenti alla mano e contratti vigenti alla mano, che noi possiamo procedere in quanto comune. Ma allora, intanto ci sono stati fatti circa quattro incontri per l'esattezza, no? Tra l'amministrazione e il sindacato. Per esempio l'ultimo dell'11 febbraio 2010, l'amministrazione aveva fatto una proposta al sindacato di mantenere una persona al 50% e di metterne in mobilità due. Che non è che il sindacato abbia disertato gli incontri, intendiamoci, il sindacato non ha firmato i verbali, ecco, non ha firmato, bisogna essere corretti, non ha firmato i verbali, al che quando è stata fatta questa proposta il sindacato ha detto o che si collocano tutte e tre le figure in mobilità, rimangono all'interno dell'amministrazione, altrimenti non se ne fa niente, e quindi non hanno firmato e se ne sono andati, ecco tutto lì. Per quanto riguarda quello che diceva lei, la sentenza della Corte di Cassazione 79 del 6 aprile 2002 ha riconosciuto la piena legittimità degli accordi sindacali che operano la scelta dei lavoratori da porre in mobilità a seguito di riduzione del personale, dando rilievo e privilegiando le esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso del personale. Cioè, a me quello che è successo dispiace, umanamente mi dispiace, perché comunque ci sono tre persone con delle famiglie sul posto, però bisogna capire una cosa, che sì, c'è stato rilievo della Corte dei Conti, ma noi abbiamo fatto anche un'analisi delle attività svolte come comune ed è agli atti e tutto, no? Dove a fronte di un totale di monte ore complessivo annuale di tutti i sei dipendenti di 10.296 ore, no? In pratica, l'impiego delle ore per i lavori che erano da fare portava a 6.008, c'era una differenza di 3.400 ore. Ecco. Allora, il problema è questo, considerato l'ho anche detto, che ogni anno abbiamo i tagli, cioè io devo prendere delle decisioni, perché così non si poteva continuare. L'esternalizzazione di alcuni servizi, peraltro, uno di legge, quello della legge Galli, poi in base alla 13 del 2005, il ciclo delle acque, non è che abbiamo deciso noi come comune, ma è l'unico comune proprio per questo motivo che è entrato nell'ATO e l'ATO successivamente ci ha affidato Caniacque con l'ente gestore, e siamo entrati solo col 1 gennaio 2008, l'ultimo comune per esempio della Carnia, e non potevo fare diversamente, perché la legge prevedeva che sotto i 1.000 abitanti un comune poteva anche decidere, sopra i 1.000 abitanti non poteva decidere, il mio comune ha 2.800 abitanti. E quindi ha dovuto conferire il servizio idrico. Ho dovuto, qui calcoli che tra le reti idriche tutti i servizi, depurazione e tutto, porta via solo questo quasi un operaio all'anno, all'incirca, no? Ecco. E questo, diciamo che per il primo anno del 2008 siamo anche riusciti a sobbarcarsi, perché abbiamo fatto. Quando dice porta via, vi sottrae risorse necessarie. Esatto. Ecco. Oltretutto, i 180.000 euro del servizio acquedotto, di depurazione e tutto, adesso noi non ce l'abbiamo più, gli introiti non ce l'abbiamo più da due anni. Ecco. Allora, per il 2008 siamo riusciti a far fare ancora qualche lavoretto assieme a Cave Acque e abbiamo ricavato qualcosa pur non avendo i soldi, ma col 2009 noi non stiamo facendo più niente per quanto riguarda il servizio idrico integrato. Ecco. Poi c'è il problema dell'esternalizzazione del servizio cimiteriale, questo peraltro l'ho già fatto tempo fa. Anche qui, perché c'era un servizio è stato dato tempo fa da un altro sindaco, e quindi anche questo, tra fare le buche, il giorno del funerale e tutto, porta via parecchio, ci impiegava il parecchio personale, quindi non c'è più neanche questo servizio. In più c'è anche una progressiva esternalizzazione di alcuni interventi manutentivi sul patrimonio comunale, che impianti elettrici e tutto questo, che oramai e anche diversi interventi, per esempio specialistici sui tetti e tutto, che dobbiamo darlo a ditte esterne per forza di cose. Ecco, quindi ci siamo venuti a trovare in questa situazione, che non è certamente bella, e a me dispiace di questo, lo che è scritto sul giornale, però non avevo altra, non sapevo cos'altro fare, ecco, questo è il problema. Ora, naturalmente, ripeto, il sindaco, come vedete, secondo me parla con responsabilità, cioè dice, io come, devo cedere i servizi, naturalmente. Io voglio che poi i comuni, abbiamo tutti in mente che devono ottimizzare, non è che c'è qualche cattivo che gli obbliga a farlo perché non capisce, perché ovviamente c'è un livello al quale la gestione di ogni servizio è ottimizzato, la sussidiarietà consiste in questo, nell'individuare quale sia il livello più basso o più alto in cui si ottimizzano rispetto al bacino da servire, agli standard di qualità di offrire, alle risorse che sono in gioco, e se non facciamo così, del resto noi l'eccesso di spesa pubblica non lo riduciamo, o pensiamo che sia possibile ridurre l'accesso di spesa pubblica senza toccare alla fine anche le piante organiche? Ecco, queste belle domande. Ora io le chiedo a voi, perché qualche telefonata ve la chiederei, ma voi vedete in questo il tabù e vedete violata la giustizia dal fatto che solo nel settore pubblico non si rischia il posto di lavoro? Deve rimanere davvero così? O è possibile mai che nel diritto del lavoro non ci debbano essere delle procedure concertate, concordate? Ma se poi il sindacato, legittimamente, dal suo punto di vista, dice io mi alzo e me ne vado, e alla fine l'amministratore pubblico, come alla testa di un'impresa, non può che procedere e fare come il sindaco di Pollaro ci ha appena spiegato. Come immaginavo, la risposta degli SMS è una risposta schiacciantemente negativa rispetto alle mie tesi. Rispetto alle mie tesi è negativa, perché il più della raffica degli SMS dice: ma piantala con la demagogia, ma tu non vedi che hanno cacciato solo due operai e una povera addetta alle pulizie, poche migliaia di euro, perché non cacciano a quel punto il segretario generale, che prenderà sicuramente molto di più? Basta con questa demagogia in cui a pagare sono solo quelli che guadagnano di meno. Ragazzi, il problema è che le piante organiche pubbliche sono piene di gente che lavora poco e che guadagna poco. Questo è il punto, cioè la politica ne ha presi troppi per questo. Perdonate che vi dà fastidio che io vado al punto, però e sono sempre di più tanti precari, le proteste sulla scuola, perché il criterio è sempre quello. Allora, se voi tutti pensate che alla fine le razionalizzazioni si fanno senza toccare tutti, e che ne so, i problemi della Fiat si affrontano magari mandando a casa l'amministratore delegato perché prende di più, e vabbè, io non so di che mondo state parlando, sicuramente abbiamo due visioni diverse. Comunque io non difendo la scelta individuale, io dico: esiste la legittimità di questo percorso, tanto per cominciare, è un percorso che si può estendere, perché altrimenti bisogna che ci intendiamo. Se voi pensate che tutti i posti di lavoro sono intoccabili come stanno, abbiamo un'idea di un'Italia non riformabile, non razionalizzabile. Nessuna impresa può ristrutturare, e tantomeno quella pubblica. Dopodiché allora uno decide se vuole essere tassato asintoticamente oppure se espatria e cambia cittadinanza, perché non c'è alternativa se la mettiamo sulla pura intoccabilità. Allora, a questo punto, prima delle telefonate, sentiamo il come la pensa il professor Maurizio Del Conte. Primo, se per l'idea che si è fatto gli istituti vigenti, il contratto, la sentenza della Cassazione, i richiami della Corte dei Conti rendono possibile e legittima, vedremo di fronte alle impugnative, ma rendono legittima a suo giudizio la posizione del Comune di Pollaro, che dice: l'individuo io i lavoratori in mobilità anche in assenza di una decisione concordata col sindacato. Secondo, se questa modalità è estensibile in realtà a tutto il settore del pubblico impiego locale, al di fuori quindi della particolarità del contratto regionale del Friuli Venezia Giulia. Terzo, cosa succede se poi nella mobilità altri non si fanno carico sempre nel settore pubblico di questi lavoratori? Arriviamo alla licenziabilità, a violare il tabù, oppure no, professore Del Conte? Lei che ci dice? Buongiorno. Ma sì, innanzitutto io direi che bisogna ricordare come il sistema pubblico nel suo complesso sia stato privatizzato da una serie di norme che risalgono al 93 nella loro prima formulazione. Quindi noi oggi, almeno in teoria, abbiamo un diritto del lavoro pubblico molto simile al diritto del lavoro privato, molto simile sulla carta, un po' meno simile nella prassi. Nel lavoro privato noi sappiamo che qualora vi siano eccedenze di personale, l'imprenditore può decidere di ridurre il personale, naturalmente anche nel settore privato è prevista una procedura di informazione e consultazione sindacale, all'esito della quale però si deve arrivare a una decisione. La decisione può essere quella di procedere senz'altro con i preventivati licenziamenti, oppure attraverso un accordo sindacale con la riduzione dei licenziamenti preventivati o addirittura con misure alternative al licenziamento. Qualcosa di simile, anzi direi qualcosa di parallelo, è previsto anche per i dipendenti pubblici. Questo è previsto non soltanto dal contratto collettivo degli enti locali, ma è previsto in via generale dalla legge, in particolare è previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 165 del 2001, che appunto introduce un percorso di riduzione del personale. È un percorso in realtà più tutelato ancora rispetto al percorso delle imprese private, perché prevede appunto una prima fase di monitoraggio di quello che c'è intorno a livello di posti di lavoro nella stessa pubblica amministrazione che ha in carico questa eccedenza, e eventualmente, laddove non si trovi la possibilità di ricollocare i lavoratori all'interno della stessa pubblica amministrazione, altre pubbliche amministrazioni periferiche della provincia o esterne ancora. Quindi diciamo c'è una sorta di ripescaggio dei lavoratori nel grande serbatoio del pubblico impiego. Se c'è una posizione scoperta, questi trovano collocazione. Certo che anche qui a un certo punto si arriva alla situazione in cui i lavoratori possono non trovare alcuna ricollocabilità all'interno delle altre amministrazioni, cioè la cosiddetta mobilità esterna. E a questo punto i lavoratori vengono collocati in disponibilità per 2 anni, ciò significa che percepiscono una retribuzione ridotta all'80% e decurtata di alcune voci secondarie, e dopo c'è il licenziamento. Questo è il quadro generale della legge. Nel caso specifico, naturalmente non sono a conoscenza dei fatti precisi. No, ma al di là del dettaglio, per le procedure della messa in mobilità nel settore del pubblico impiego, il concorso preventivo del consenso di un accordo con sindacati o quantomeno con la maggioranza è necessario, previsto la legge come tassativo, una condizione ordinatoria, oppure in assenza di questo consenso, come avviene nel caso del Comune di Paolaro, si procede? No, l'accordo non può mai essere obbligatorio. Per essere d'accordo bisogna essere in due, quindi non può esserci un accordo vincolante, altrimenti sarebbe una forzatura della volontà delle parti. L'accordo, diciamo, la legge lo prevede come fase eventuale. Quello che è certo è che ci debba essere il confronto sindacale, quindi deve esserci la procedura di informazione, consultazione, discussione e apertura del tavolo sindacale. Poi però che le parti riescano ad arrivare a un accordo dipende dalla loro volontà. L'ultima parola resta comunque al datore di lavoro, così come nel settore privato resta l'imprenditore, nel settore pubblico resta all'amministrazione pubblica. C'è un problema, naturalmente. Il problema è quello dell'individuare chi fra i lavoratori in eccedenza debba effettivamente finire in mobilità e poi in disponibilità. Cioè, in sostanza, se io ho un'eccedenza di N lavoratori, devo sapere i nomi e cognomi di questi signori. E allora qui si tratta di vedere se esistono dei criteri di scelta particolari oppure se esistono dei criteri di scelta determinati dalle parti stesse. In generale la legge privilegia un accordo fra le parti, nel senso che se le parti si mettono d'accordo su... Che qui però non c'è stato, perché il sindacato ha detto quindi anche se ce n'è uno solo in mobilità noi ci alziamo, quindi non c'è stato né sui criteri né tantomeno sui nomi. A quel punto, non essendoci l'accordo, è applicabile de plano senza problemi la sentenza della Corte di Cassazione che riconosce alle esigenze tecnico-organizzative, cioè alla parte datoriale, la facoltà di dire mi serve fuori questo, questo e questo, anche al settore pubblico oppure no? Dunque, guardi, questa sentenza in realtà è una delle tante sentenze in materia di licenziamenti collettivi. Questa sentenza è già stato correttamente ricordato da lei, è in realtà una sentenza in materia di lavoro privato. quindi enuncio un principio di carattere generale. Sicuramente la giurisprudenza nella sua molteplicità dice che in mancanza di un accordo fra le parti esistono dei criteri, e fra questi criteri c'è in via principale le esigenze tecnico-organizzative produttive. Quindi in linea generale, lo ripeto, l'applicazione di un criterio tecnico-organizzativo-produttivo è corretto. Bisogna poi anche verificare i carichi di famiglia ed eventuali altre posizioni come l'anzianità di servizio, e diciamo così contemperarli fra di loro, ma sicuramente il criterio dell'esigenza tecnico-produttiva è il criterio che guida la scelta. Quindi mi pare di capire, il giudice, diciamo, avrà facoltà interpretative, quindi qui si porrà un'interessante questione di fronte alle impugnative. Io ringrazio il professor Del Conte, mi sento in colpa a tenerlo troppo collegato, quindi intanto la ringrazio molto della disponibilità e la saluto. Sentiamo alcune telefonate, cominciamo da Paolo, provincia di Macerata. Come la pensa su questa questione della licenziabilità senza d'accordo col sindacato anche nel settore pubblico? Paolo, prego, dica. Buongiorno Gianino, sono favorevolissimo, perché io credo che dovremmo adeguarci a livello anglosassone, dove è già previsto il licenziamento dei pubblici impiegati. Addirittura credo che un anno e mezzo fa, con un decreto, hanno licenziato circa 100.000 impiegati pubblici che erano in esubero. Tutto qua. Questo è il Regno Unito, sì, in effetti, il Regno Unito. Marco Cirillo ci chiama, che Marco Cirillo è sindaco di Milano 3, quindi Milano mi interessa. Ecco, mi interessa. 10.000 abitanti. Quindi insomma, non proprio un centro piccolo. E la pensa? E la pensa in materia? Molto, innanzitutto solidarietà al collega che non conosco, ma per la posizione che occupa e le difficoltà lo comprendo perfettamente, perché l'ho passato anch'io. Pertanto sono d'accordo con lui. Bisogna sfatare questo mito. Il peso degli importi, degli stipendi che si pagano per il pubblico impiego, anzi il comparto enti locali nei bilanci dei comuni pesa notevolmente e sottrae risorse per gli investimenti e le spese correnti per i servizi per i cittadini, questo bisogna dirlo. Quindi da una parte c'è una politica nazionale che tende a dire ai comuni spendono, e questo non è vero, e da là è soltanto bastonate, togliere l'ICI piuttosto che togliere una serie di tributi fondamentali per la vita, dall'altro un personale che fagocita le risorse che invece potremmo investire per i nostri cari cittadini. Questo è il primo problema. La penso come lui, avrei fatto la stessa cosa, ho tentato di farlo in un caso, però ho dovuto riconvertire il personale e riassumerlo all'interno del comune, perché ho esternalizzato anch'io dei servizi molto importanti e il personale era in esubero, però la pianta organica consentiva il recupero, trattative feroci, prefetti, cose varie, insomma alla fine siamo rentrati dentro casa, abbiamo dovuto tutti dentro. Detto questo, io ho portato avanti per esempio una proposta folle, per certi versi faccio parte anche dell'ANCI, io dico perché i comuni, anzi le amministrazioni che sono elette dai cittadini sulla base di un programma elettorale nel quale individuano degli obiettivi e per raggiungere quegli obiettivi devono orientare la macchina amministrativa, cioè cosa dire, dotarsi di un'organizzazione confacente che può non essere, come sempre accade, quella ereditata precedentemente da un'altra amministrazione, non possono licenziare o assumere il personale. Perché non possono farlo? Perché non posso ridurre il personale e assumerlo? Perché, lo dico io Marco, qual è il punto? Perché la reazione sarebbe immediatamente di dire volete confondere lo spoil system a tutti i livelli, a quel punto buttereste la gente per strada in cambio del suo voto politico. Questo dico, la reazione è più da bar, ecco, insomma questo è quello che sento già arrivare negli sms di fronte alla sua proposta. Va bene provocare, ma bisogna far capire alla gente che quando c'ho il 45% delle spese del personale e spesso non mi serve, vuol dire che io non ho risorse per mantenere i servizi, le scuole, esatto, e compagnia, esatto, cantata, esatto. È inutile che stiamo a raccontare. La ringrazio perché la sua esperienza secondo me conforta nell'idea, naturalmente ognuno è libero di pensarla diversamente, che la componente personale è una componente che nei diversi branchi del pubblico impiego ha un peso molto rilevante sul totale della spesa. Ricordo che nella scuola è il 99.5%, 0.6, avete capito? Cioè, fuori di costare la scuola, un problema di chi ci lavora dentro, e a ogni anno scolastico assiste a questo questa cosa immonda di questi giorni in cui il problema sono 40.000 sempre ad assumere in più. E la scuola non dovrebbe avere questa priorità, dovrebbe essere, avere come priorità gli standard formativi da offrire a chi la frequenta, non essere un problema, un mega ammortizzatore sociale per chi ci lavora. Uso questi termini duri, mi dispiace se molti professori come al solito confonderanno la cosa con una mancanza di rispetto nei loro confronti. Io non ne posso più di un problema in cui nessuna questione di un paese in cui nessuna questione si può affrontare, perché il problema è sempre assumiamo qualcuno e poi ne parliamo, perché a me francamente che sono imprenditore di me stesso e voi direte eh sì quanto sei bravo, facciamo cambio, eh? Perché in questa poi vedo che alcuni sono critici, non lo so, visto che è tutto un bengodi per voi il lavoro autonomo che rischia, perché non venite tutti quanti rinunciando quindi alla tutela del lavoro dipendente? Scusate, ecco, sentiamo come la pensa Nico da Pescara. Salve, buongiorno. Sì, pronto? Dica. Ah, mi sento, buongiorno. Senta, no, io volevo semplicemente porre un quesito che più o meno penso tutti quanti ci siamo posti nella vita. Sì. Per quale ragione il dipendente pubblico non può essere licenziato? A differenza del dipendente privato, perché è vero quello che diceva il professore in precedenza, che anche lì esistono gli accordi sindacali, la licenziabilità dopo varie trattative, però questo riguarda le aziende al di sopra dei 15 dipendenti, le piccole aziende, che è una miriade in Italia, licenzia senza porsi il dubbio o il problema che Tizio o Caio ha due bambini piccoli, così come avviene per gli altri dipendenti del pubblico, perché poi si porta sempre sul dalto la parte umana. Già. E ovviamente. Però la parte umana nel settore privato per quale motivo dovrebbe pesare invece meno o nulla rispetto a quanto pesa in quella pubblica? Questa è la cosa che io mi pongo, perché il dipendente pubblico è privilegiato rispetto a... Perché Nico, nell'ordinamento la maggior tutela, cioè licenziabilità, nasce come conseguenza del principio dell'indipendenza della pubblica amministrazione, articolo 97 della nostra Costituzione, e cioè nasce come scudo aggiuntivo per impedire appunto che provvedimenti di tipo persecutorio o di tipo discriminatorio da parte di chi vince l'amministrazione, la politica, tutti i livelli vengono assunti nei confronti di chi sta nella pianta organica, e quindi a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza, a qualunque ordine, qualifica e grado della pubblica amministrazione, dei pubblici dipendenti, ecco che c'è questo scudo in più. Che naturalmente però significa che i problemi privati, come dice lei, contano un po' meno nel settore privato quando c'è da licenziare, e contano invece tantissimo i carichi familiari, eccetera, eccetera, l'intangibilità nel settore pubblico. Stiamo parlando di questa vicenda dei tre dipendenti, due a tempo indeterminato, uno a tempo determinato, Comune di Paullaro. Il sindaco, una volta esperito che il sindacato non è d'accordo sulle procedure di mobilità, ha dovuto cedere e esternalizzare dei servizi il comune, deve rientrare sulle spese, e a questo punto individua i tre lavoratori in mobilità. E stiamo parlando della legittimità, del fondamento di tutto questo, delle sensibilità a tutto il pubblico impiego, di che cosa fondi poi l'intoccabilità del dipendente pubblico rispetto a quello privato. Sentiamo ancora qualche telefonata e poi il round finale di opinioni del sindaco e del sindacalista. Sentiamo Luigi. Luigi che chiama da Firenze. Prego Luigi. Buongiorno. Nulla, io volevo chiedere una semplice cosa. Dato che lavoro già nel campo di una ditta appaltatrice nel comune di Firenze come idraulico, io volevo chiedere al sindaco, il problema è l'esternalizzazione dei servizi. Ci può spiegare praticamente qual è il costo di esternalizzare a una ditta privata, dato che so che praticamente il costo è maggiore, se praticamente non può essere attuato su dei dipendenti che possono fare la stessa mansione? Il problema qual è? Si dice che praticamente gli operai possono fare quello che vogliono, ma c'è un organo di controllo, qualcuno... La mia domanda è questa: tra un'esternalizzazione da parte di una ditta esterna e tra l'impiego del proprio comune verso i suoi operai a far attuare la stessa mansione, dato che praticamente due persone con la stessa esperienza, lo stesso modo di lavoro, penso che siano allo stesso modo. Ci dice un attimino i costi che praticamente da se esternalizza il prodotto. Grazie a Luigi da Firenze. Abbiamo anche un altro Luigi, ma da Roma. Sì, pronto, buongiorno. Dica buongiorno, sì. Sì, buongiorno. Niente, il mio intervento era sostanzialmente questo. Volevo dire che ritengo che la pubblica amministrazione sia un bel serbatoio di voti, e l'unico modo per smontare questo serbatoio è quello di cominciare a ridurre. Di questo ne sono fondamentalmente convinto, anche perché il pubblico dipendente, a differenza del lavoratore privato, ha fatto un concorso, e se è vero che c'è la possibilità di licenziarla, a quel punto però non dobbiamo nemmeno più riassumere, perché altrimenti non ha senso licenziare per poi riassumere dopo 2 anni. Quindi diciamo che dovrebbero un attimino prima far pace col cervello chi dice queste cose. E poi ovviamente, ripeto, questo è il mio... Benissimo, grazie anche a Luigi da Roma, quindi a favore delle procedure per, che consentano anche poi in qualche maniera, ma comunque di praticare delle riduzioni. Allora, Luigi da Firenze ha chiesto una delle domande più ricorrenti anche nei nostri SMS, lo devo dire al sindaco Vueli, cioè molti si chiedono, ma sì, esternalizzare, voi dite che deve il conferimento dei servizi idrici al lato, eccetera, però non si potrebbe capire un po' di più, perché gli italiani sono sempre convinti che poi non gli si nasconda qualcosa, cioè che alla fine si preferisca licenziare ma poi si sprecano pure i soldi. Come stanno le cose, signor sindaco? Allora, l'ho detto appunto, ribuongiorno di nuovo. Allora, prima cosa volevo solo dirle in merito a un SMS. Io non ho nessun segretario generale, io ho un segretario che lei l'ha sentito stamattina con altri due comuni nell'ambito della nostra associazione. Quindi fa 3 giorni a Paularo, 1 giorno e mezzo a Ligosullo, 1 altro giorno e mezzo a Zuglio, e non ho nessun segretario generale. Quindi, no, giusto per spiegare, che per certo, prima. Certo. Allora, torniamo proprio per questo, ed ho solo 3 posizioni organizzative nel comune, che vanno dalla ragioneria al tecnico agli affari generali, e basta. Quindi allora, non stiamo parlando di pletorico assemblato di dirigenti che si tutelano e licenziano gli operai. Non ne ho, ecco, tanto per capirci. Allora, il problema del servizio idrico integrato, il telespettatore dovrebbe sapere che la legge Galli del 94 e la nostra regionale, la 13 del 2005, come le ho spiegato prima, noi non possiamo più gestire questo servizio per legge. Quindi io, a malincuore, le ho detto, ho dovuto trasferire del tutto a Lato, che successivamente l'ha dato in gestione a una società che si chiama Carni Acque, per quanto riguarda la Carnia, è assunto servizio, assunto tutto il servizio, no? Inoltre ho perso anche, diciamo, i proventi che avevo, che sono circa i canoni, 180.000 euro all'anno, ecco. Quindi su questo non c'è nessuna trattativa. Perché è una legge che dice, se la legge un domani mi torna a dire ricambiamo tutto, i servizi idrici integrati li possono gestire autonomamente i comuni, anche piccoli, riscuotendo i canoni, allora è un'altra cosa, ma questo bisognerà cambiare la legge, no? Certamente. Detto questo, andiamo sui servizi cimiteriali. Non l'ho fatto io, siccome hanno un contratto che scadrà fra 4-5 anni, e chiaramente io non posso adesso andare a rivedere questo servizio cimiteriale, assolutamente, però calcoli che se prima le dicevo ci voleva per il servizio cimiteriale tra le pulizie e l'esumazione, l'inumazione circa 15.000, 20, diciamo un operaio mettiamo che può costare circa 25.000 euro, con l'appalto che è stato fatto dal sindaco di allora, noi con 10.000 euro, 12.000 euro facciamo il servizio. E quindi i conti, ecco, come però, si vede. Però, ripeto, c'è un contratto che scade non adesso, e quindi io devo onorare queste cose, no? Ecco. Quindi non so dove posso andare a tingere, ecco, francamente. La posso chiedere una cosa che non abbiamo detto ai nostri ascoltatori? Il tipo di giunta cos'è? Una giunta... Allora, nel 2006, questa qui è una giunta analista civica, dove c'è all'interno della giunta e dell'amministrazione, c'è da destra a sinistra. Ho capito. Va bene, allora io ringrazio intanto il sindaco e naturalmente butteremo un occhio nel proseguo della vicenda per capire come va poi come vanno le impugnative, quale sarà il principio che verrà riconosciuto dal giudice del lavoro. Al segretario della CISL dell'Alto Friuli, Giovanni Di Mattola, al di là della vicenda, su cui è già intervenuto specificamente, di questi 3 lavoratori, sempre che non abbia altro da aggiungere può farlo, le chiedo, non c'è anche un problema generale di individuare una modalità per cui, siccome deve dimagrire questo settore pubblico e non è affatto detto che basti il blocco del turnover, bisogna entrare nell'orbita di idee che in qualche maniera, con il sindacato, non contro, nel rispetto di principi, di una metodologia individuata, però come si fa per il settore privato che quando è in crisi e razionalizza, diminuisce le piante organiche, così avvenga anche per il pubblico, oppure no? In cosa è sbagliato questa richiesta di Mattola? La richiesta non è sbagliata, certamente un ridimensionamento dell'ente locale è auspicabile, anche perché la macchina organizzativa richiede tantissimi investimenti. ma la cosa che volevamo sottolineare come CISL è quella che sicuramente l'azione del sindaco non è condivisibile, perché se entriamo nel merito, noi abbiamo proposto possibili soluzioni per rimodulare, concordandolo anticipatamente con i dipendenti, il proprio orario di lavoro dei tre dipendenti stessi, che portavano un risparmio all'ente pari ad un'unità completa, e a regime nei tre anni successivi si arrivava ai 60.000 euro che il Comune aveva preventivato come risparmio di gestione sul personale. Purtroppo nei tavoli delle trattative questa cosa non è stata voluta seguita e ci siamo ritrovati in questa situazione, una situazione paradossale, perché vi dico che le nostre proposte erano valide, ma c'è stata un'ostruzione incredibile da parte del Comune, quindi ci troviamo in difficoltà su questo argomento. Agnatti, io sì. La ringrazio, vediamo come va la vicenda, avrete capito. Aggiunga. Solo per puntualizzare un'altra cosa che credo sia fondamentale. Credo che il Comune di Paularo, all'interno dei parametri di spesa, tra il rapporto di spesa tra il personale e entrate correnti, risulta nella regione Friuli Venezia Giulia un ente virtuoso, spende il 20-22% del totale, questo totale che in regione arriva a una quota massima del 41%. Chiarissimo. Quindi il Comune di Paularo è già un ente virtuoso, non aveva bisogno di tagliare i dipendenti. Ecco, e questa è la differenza di fondo, se poi sia necessario essere più virtuosi o meno. Io sono a favore dell'essere più virtuosi. Il settore pubblico, ai miei occhi, appare ipertrofico, assai poco produttivo, e io non credo che l'intangibilità dei suoi dipendenti, come dei suoi dirigenti, come dell'eccesso di figure che guadagnano in troppe consigli di amministrazione, delle controllate, eccetera, eccetera, o disboschiamo, oppure, la mia opinione, io sono tra quelli che dicono, tenderò a prendere o con le mani o con i piedi, o cambiando voto, oppure cambiando paese, alla fine le decisioni fondamentali. Il mondo va in un'altra direzione, se noi siamo convinti di potercene fregare e di guardarci l'ombelico, perché tanto sono le piante organiche il problema fondamentale, no, il problema fondamentale è in quanti lavorano di più, meglio, e in quanti al minor numero fanno le migliori cose. Questo lo so che dà fastidio a molti sentirselo ripetere, però è il binario su cui il mondo di chi ha fame continuerà a correre più rapidamente di noi, se noi non lo capiamo. Bene, grazie quindi al sindaco del Comune di Paularo e al segretario della CISL Alto Friuli e al professor Maurizio Del Conto, che abbiamo disturbato mentre era Richmond negli Stati Uniti a un'ora un po' improbabile. Grazie a voi tutti, grazie in regia a Roberto Scaltriti, in redazione Alessandro Marco Tulli, la linea al giornale radio, appuntamento a domani.